Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti cari radioascoltatori e cari gastronauti. Bene, oggi parleremo di un tema un po' particolare, sullo spreco alimentare, cioè lo spreco che viene fatto all'interno della famiglia, quindi all'interno delle proprie cucine. È un fenomeno che può sembrare così molto limitato, in realtà vedrete che andremo a scoprire che le cifre sono veramente molto, ma molto importanti. Si parla di 146 kg di spreco per ogni italiano. Bene, diciamo che qui potremmo applicare la legge di Trilussa, nel senso che c'è chi spreca tre volte questo dato, chi invece non spreca assolutamente niente perché non ha ben poco da mangiare. Quindi diciamo che comunque il fenomeno è molto molto rilevante. Allora vedremo la prima parte qual è il fenomeno, poi andremo anche a vedere se ci sono così dei rimedi, per spiegare meno, se ci sono delle tecniche per fare la spesa, delle tecniche per appunto riuscire a non buttare tantissime cose nel cestino e nell'immondizia. Bene, vorrei cominciare proprio con un esperto importante, con il professor Andrea Segre, che è l'inventore e presidente di Last Minute Market, un fenomeno ormai diciamo che è abbastanza conosciuto, ma ha scritto anche un libro ad hoc che è Vivere a spreco zero, e poi ha, credo, per le mani un rapporto che verrà presentato nei prossimi giorni, che è proprio sullo spreco alimentare domestico. Buongiorno Andrea. Buongiorno Davide. Allora, ci fai un flash su questo fenomeno, visto che hai questi dati e tu da anni ti occupi di questi problemi. Lo spreco alimentare è veramente all'interno dello spreco totale, ha una rilevanza importante? E ha una rilevanza perché è vero, siamo in crisi, se guardi il dato dei rifiuti ce ne sono di meno perché acquistiamo di meno, però lo spreco è qualcosa di diverso, cioè dentro il rifiuto può esserci qualcosa di ancora buono. Getti via un prodotto che è vicino alla scadenza, che è un po' danneggiato, ma che potresti ancora consumare, ed è lì che noi siamo entrati, perché è proprio nelle nostre case che il fenomeno è più rilevante. Nell'industria, in agricoltura, ciò che si getta via ancora buono, diciamo non vendibile, si può recuperare, ed è quello che facciamo noi con la Last Minute Market, ma la gran parte di spreco sta a livello familiare, perché non sappiamo più come gestire i prodotti, come acquistarli, cos'è il frigorifero. Allora il dato che presenteremo mercoledì, abbiamo costituito questo osservatorio che si chiama Waste Watcher, la sentinella dello spreco, è abbastanza impressionante ancora nonostante la crisi, perché ci costa qualcosa come in totale 8 miliardi nel nostro paese e circa lo 0,5-0,6% del PIL, insomma due IMU, ecco, tanto per dare un raffronto numerico. Beh, direi che comunque oltre al dato economico di questo danno c'è dall'altra parte che buona parte di questo cibo potrebbe essere, diciamo, mangiato da altri, e questo secondo me è il fenomeno molto molto importante. Comunque voglio ricordare il numero verde 800 24 00 24 349 238 66 per chiedere quanto sprecate voi e come cercate di porre fine, diciamo, a questo fenomeno dello spreco nelle vostre famiglie. Voglio sentire anche degli esempi magari importanti di qualche radioascoltatore. Andrea, volevo chiederti anche questo. Ormai, cioè, molti propongono dei rimedi. Io credo che il maggior spreco sia quando si va a fare la spesa, che si esagera e si compra sempre qualcosa di superfluo. Sì, sembra un po' nei tipi da spreco che abbiamo classificato che ci sia un po' l'accumulatore, cioè quello, il consumatore che va a fare la spesa pensando di essere in un'economia di guerra e che deve prendere e comprare tutto, anche ciò che poi alla fine magari non gli serve e finisce nel frigorifero, strumento che dovremmo imparare a conoscere meglio, da qualche parte, e poi davvero scade, davvero fa la muffa e non si può più consumare. Fra l'altro nella classifica, diciamo, delle cause di spreco, quella più alta nel nostro panel appena rilevato è ha fatto la muffa, è scaduto, non conservo bene frutta e verdura. Insomma, dobbiamo un po' riprendere quelli che erano cardini, chiamiamoli così, dell'economia domestica. È come se ce la fossimo dimenticata, eppure è nella nostra cultura. Bene, sentiamo un radioascoltatore da Rimini, Alessandro. Buongiorno Alessandro. Buongiorno, ho ascoltato con interesse. Io direi prima di tutto di non far sempre colpa al consumatore, anch'io sono un consumatore. Poi ci sono degli elementi che vedo che non vengono tenuti in considerazione, e cioè prima di tutto come è composto il nucleo familiare, già cambia moltissimo se si è in 4, in 3, in 2 o si è da soli, no? Perché ovviamente le confezioni che vengono poste nei supermercati e comunque nei negozi non seguono quelle che possono essere le quantità ragionevoli per porzione, no? Quindi rimane sempre qualcosa. Secondo, questa è una società dove si lavora in due, marito e moglie, per cui il tempo di stare in cucina e recuperare quanto è rimasto non ce n'è. I nostri genitori facevano dei risparmi ottimi e ci facevano sempre mangiare molto bene. Adesso non c'è tempo di stare in cucina, ce n'è pochissimo, o non c'è neanche la voglia di farlo. Ecco, quindi direi che questi sono i due elementi fondamentali che possono portare a questo spreco, ma non credo che ci sia la volontà di sprecare, è che la gente si trova in una situazione nella quale non può fare purtroppo a meno. Bene, Andrea, sei d'accordo con questo, diciamo, rovesciare anche le colpe all'industria? Sì, ma è quello che dice l'ascoltatore è assolutamente verosimile. Poi facciamo delle analisi a campioni, adesso abbiamo riportato i macro dati, ma c'è un altro elemento che posso aggiungere: nella composizione del nucleo familiare si vede chiaramente che i giovani, i più giovani, sono fra virgolette più spreconi, perché non si pongono neanche il problema di aprire per esempio la confezione, piuttosto che, ecco, uno yogurt che scade quel giorno, non verifichi che magari sia ancora, diciamo, perfettamente consumabile. Siamo insicuri, abbiamo paura, via nel bidone della spazzatura. Nessuno ha voglia di sprecare, e fra l'altro nelle rilevazioni che facciamo non è, come dire, una confessione facile, però pian pianino, come si diceva una volta, stiamo prendendo coscienza e comportiamo fra virgolette un po' meglio. Ci deve senz'altro aiutare anche l'industria, la distribuzione, perché la questione del cosiddetto packaging è assolutamente fondamentale. Le confezioni sono anche di tagli diversi e forse troppo fra virgolette distanti, però la confezione è importante perché aiuta a preservare il prodotto. Devo dire che questo argomento veramente interessa, sono già pieno di sms, di telefonate, vedo che un problema che tocca veramente, 800 24 00 24, ma ora diciamo che dal cappello tiro fuori una cosa divertente, perché ho qui con me i due finalisti di MasterChef, che ormai basta chiamarli due finalisti, ora si chiamano Kissene Food, e quindi sì. Credo buongiorno che... Davide. Ciao, buongiorno Davide, tutti. Ciao a tutti. Andrea Marconetti e Maurizio Rosazza Perin sono ormai questi, ma voi sprecate? Sì, tanto sì, purtroppo io devo dirlo, ogni tanto sì, ma bisogna, come tutto, avere come in tutte le cose, avere una strategia. Secondo me nelle nostre dispense esistono delle ricette molto interessanti anche senza fare la spesa, quindi invece di usare il bancomat a volte bisogna usare le idee, quindi ci sono delle belle mystery box nelle vostre case. Andrea, esatto, ma tu? Sì, ma... anch'io ho un po' questa cultura del non spreco. Io sono cresciuto con le nonne, mi hanno insegnato a non sprecare, cioè mi hanno insegnato proprio a fare tipo il minestrone con la crosta del formaggio, degli gnocchi con il pane secco, eccetera eccetera, per cui io sono convinto che il non spreco sia una questione di educazione. Bene, cioè, io... i genitori e i nonni, per me soprattutto la mia nonna, mi ha insegnato proprio a non sprecare. Io direi anche un fatto di conoscenza, perché imparare a fare la spesa è un fatto importante, e quindi credo che sia quello un po' il punto. Ma sentiamo Danilo da Brescia, un radioascoltatore. Buongiorno Danilo. Buongiorno. Io ho 30 anni e volevo un attimino dire la mia piccola esperienza, non avendo tempo, lavoro moltissimo, faccio anche il pendolare, non avendo tempo per fare il minestrone con la crosta del formaggio con gli gnocchetti, purtroppo ho semplicemente un trucco che ho imparato facendo il barista durante l'università. Quando si fa la spesa, il cibo che si prende bisogna metterlo in fondo al frigorifero e portare avanti il cibo che c'era prima, così non si butta via niente. Ho scoperto che è il trucco universale questo qua. Bene, bene Danilo, lei ha parlato di crosta, poi ci sarà una sorpresa perché il consorzio parmigiano reggiano lancerà una grande idea per recuperare la crosta, ma vedremo poi. Allora, ora abbiamo con noi una nutrizionista, Lucilla Titta. Buongiorno Titta. Buongiorno a tutti. Io tempo fa ho letto alcune norme che lei dà appunto per fare la spesa e saper scegliere per non sprecare di fatto. Ci vuole dare qualche elemento? Può dare ai nostri radioascoltatori così qualche trucco? Assolutamente, sentivo parlare di strategia e in effetti più che un trucco servirebbe proprio organizzarsi. Organizzarsi significa pensare a quello che si consuma, che si consumerà in una settimana o in qualche giorno mentre si fa la spesa. In questo modo si ovviano sia errori appunto dal punto di vista economico, quindi sprechi, sia errori dal punto di vista nutrizionale, perché non sempre quello che si recupera all'ultimo momento o più facile da fare, più svelto, è anche nutrizionalmente corretto. Invece una pianificazione quando si fa la spesa, quindi pensando a tutti i componenti del pasto, questo proprio evita sia lo spreco sia appunto il prosciutto e formaggio che non abbiamo messo. Okay? Guardi, le leggo un SMS che cade fagiolo, come si dice: andate a fare la spesa a stomaco pieno, io vado sempre subito dopo pranzo, risparmio e compro meno prodotti superflui. Sì, questo, ci sono addirittura degli studi scientifici che hanno indagato su questo aspetto. In effetti, quando si è affamati si fanno delle scelte insomma poco salutari e soprattutto si eccede in quantità rispetto a quello che è necessario. Invece immaginare di avere sempre bisogno ad ogni pasto di una fonte di carboidrati, quindi o riso, pasta, pane, cereali, quindi una fonte di carboidrati, una fonte di proteine che può essere pesce, si può anche pensare appunto che verso la fine della settimana si mangerà del pesce, quindi comprare del pesce surgelato o surgelarlo, piuttosto che tutta la parte di verdura e frutta, tenere per la fine della settimana la verdura che si conserva meglio, di stagione, che quindi costa meno. Adesso faccio un esempio: la zucca, che si conserva molto bene, o le brassicace, quindi cavoli, broccoli, verza, e tenere invece l'insalata, i pomodori, comunque la verdura che ha meno, si conserva meno per i primi giorni della settimana. Poi pensare anche alla frutta, stesso discorso vale per la frutta, si può pensare di consumare verso la fine della settimana frutta che si conserva meglio, come mele, pere, e invece frutta che dura di meno per l'inizio della settimana. In questo modo si varia, si spende di meno perché si utilizzano prodotti di stagione e non si butta via niente. Bene, io la ringrazio, voglio ricordare comunque di Lucilla Titta, autrice di Cibi che aiutano a crescere e Omega Me. Grazie, la ringrazio, a presto. Vabbè, Maurizio, tu che sei uno sprecone, hai preso nota di questi? Sì, assolutamente. Ma per ovviare a questo, io ho svoltato comprando la macchina del sottovuoto. Esatto. Quindi facendo la spesa al sabato riuscivo a stipare delle rate alimentari mantenendole più o meno fresche grazie al sottovuoto. Quindi con 90 euro potete sprecare anche un po' di meno. È una grande invenzione. Bene, grazie, poi torneremo. Sentiamo Enrico da Mantova, un radioascoltatore. Buongiorno Enrico. Enrico è caduto. Simone da Venezia. Buongiorno Simone. Sì, buongiorno Paolini. Senta, io sono saltato veramente sul sedile della macchina quando ho sentito il vostro ospite che ha detto che i giovani sono spreconi. È un luogo comune che vorrei assolutamente sfatare. Non sono spreconi, ma devono risparmiare. Ma quando vanno al supermercato si trovano offerte solo di prodotti con 3-4 confezioni, eccetera, trovandosi poi magari a doverle buttare. Allora, qual è il giusto compromesso? Spendere di più al supermercato comprando confezioni piccole, monodose, oppure comprando confezioni grandi e poi dopo buttarle? Le multinazionali, le grandi distribuzioni non sono vicini sotto questo punto di vista al consumatore per quanto riguarda lo spreco, quindi... Simone, non tutti sono d'accordo che i giovani sono spreconi, ma Andrea, sono spreconi i giovani? Secondo me no, secondo me è un po' il contesto in cui adesso siamo abituati, i ritmi, il fatto che non puoi andare a fare la spesa ogni giorno dal piccolo bottegaio a comprare una banana, un pomodoro. anch'io sono il tipo che va al sabato e compra, vado dentro al supermercato e compro, faccio la cambusa, no? E purtroppo sono costretto ad acquistare delle grandi quantità, cioè anche magari per spendere poco, per spendere... Quindi secondo me la grande distribuzione in questo ha un contributo. Grazie, grazie. Sentiamo Isabella da Como, una radioascoltatrice. Buongiorno Isabella. Buongiorno a voi. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Io volevo portare l'esperienza della nostra famiglia, una famiglia dove i genitori hanno quasi 76 anni, mamma comasca, papà mantovano, entrambi origine relativamente contadine. E più che imparare a fare la spesa, cosa qui per noi è abbastanza comune, noi abbiamo imparato ad esempio a comprare non più l'affettato al sabato sciolto, ma sempre in vaschetta, e quando sappiamo che dobbiamo utilizzarlo ne ricomperiamo una. Questo è un primo aspetto, ma soprattutto mia mamma è una persona che è capace di riciclare veramente tutto, dai ciuffi dei rapanelli, che sono un'ottima verdura cotta, all'acqua in cui si cuoce la pasta, ad esempio, perché l'acqua in cui si cuoce la pasta è un'acqua calda e va benissimo per lavare i piatti, riducendo poi la quantità di detersivo da utilizzare. Ecco, in questo senso noi risparmiamo non solo sulla spesa, ma riusciamo anche una volta a casa a sfruttare al massimo quello che sono i residui casalinghi della nostra spesa. Bene, grazie Isabella del suo contributo. Vedo che qua stanno prendendo nota a tutta fretta, insomma, perché gli interventi si susseguono e anche tantissimi sms, non li posso leggere tutti, ma ne leggo uno che dice: sono Riccardo da Rieti, io ho alcune galline e do le uova agli amici, che in cambio mi portano pane secco che altrimenti getterebbero. Beh, insomma, uno scambio un po' complicato, però può andare. Ma ora abbiamo con noi un ricercatore dell'Università dell'Insubria e di Como, che però è un grande esperto, ha scritto molti libri e soprattutto ultimamente è uscito con un volume davvero molto interessante, Le bugie nel carrello. Buongiorno a Dario Bressanini. Buongiorno Dario, e io, cioè, tu nella prefazione del tuo libro dici che vai spesso a fare la spesa al supermercato e hai trovato tante bugie, ma mi chiedo, tu vai con una lista già pronta per non sprecare oppure ti sai regolare? Sì, assolutamente vado con una lista, come è già stato detto prima, è fondamentale, ma ho scoperto che è ancora meglio se prima di fare la lista si cerca di preparare, così almeno mentalmente, un menù per i prossimi 2 o 3 giorni, così uno sa, cioè, decide che quel giorno, quella sera, che cosa mangia di primo, quali verdure vuole, quindi compra esattamente quello che gli serve per costruire un pranzo o una cena ed evita appunto di sprecare, cosa che come è stato detto da Andrea Segre è un grosso problema per le famiglie. Ecco Dario, tra le tante bugie che tu hai trovato appunto e sono diverse nei supermercati, ce n'è qualcuna che secondo te influenza all'acquisto, un acquisto che poi serve a ben poco quello che si è acquistato? Alcune sì, secondo me ci sono alcuni acquisti di alcuni prodotti che vengono fatti d'impulso perché a volte ci illudono che ci possano far bene, e io sono molto critico rispetto a moltissimi alimenti a cui è stato aggiunto qualche cosa che noi percepiamo come benefico per la salute, li vediamo, no? Aggiunti gli omega 3, aggiunti ferro, aggiunto selenio, ecco, questi sono secondo me a volte acquisti che uno fa d'impulso perché vede questo, non so, i cereali a cui è stato aggiunto il ferro, pensa che facciano bene, non si chiede se lui ha già una carenza, questa persona ha già una carenza o meno di ferro, e così li acquista d'impulso. Ecco, secondo me questi tipi di richiami che fanno un po' che giocano un po' sul fatto che noi siamo molto ansiosi anche per la nostra salute, per quel che mangiamo, ci fanno acquistare cose che magari non, di cui magari non avremmo bisogno. Ti riferivi anche al Kamut? Ma sì, mi riferivo a tante cose, diciamo al Kamut, a tutto quello che viene percepito e pubblicizzato come salutista, ma non lo è, alle patate addizionate con il selenio, con le carote allo iodio, ecco, tutti questi tipi di alimenti che presi singolarmente possono sicuramente fare bene, però ci si deve chiedere se effettivamente li stiamo comprando per quel motivo oppure se perché vogliamo fare un piatto di patate. Siamo un popolo di spreconi oppure i 146 kg che ci vengono attribuiti sono da leggersi con attraverso la legge di Trilussa? Questo è un interrogativo. Numero verde 800 24 0024 349 238 6666 per gli SMS. Bene, sentiamo Riccardo da Trento. Buongiorno Riccardo. Sì, buongiorno Davide. Prego. Io sono direttamente dal supermercato praticamente, e sono un cuoco, mi occupo appunto di cucina, ho anche un sito internet dove parlo di cucina e io volevo dire la mia un attimo, insomma praticamente vabbè adesso mi è nata da poco la bambina, Viola che saluto, e praticamente mi occupo da una mano a mia moglie che chiaramente è a casa perché deve occuparsi di lei e tutte le settimane vado a fare la spesa. E anche nel mio sito parlo, che si chiama angolodelgusto.it, ne approfitto di fare un attimo di pubblicità, parlo di come organizzare la spesa, partendo dagli ingredienti, dagli alimenti, quelli più freschi, per arrivare agli alimenti surgelati da prendere sicuramente a fine giro di spesa, ecco. Questo è quello che... Bene, grazie, grazie Riccardo, che noi salutiamo Viola, ma penso che non ci senta perché insomma si è appena nata. Comunque grazie Riccardo, ma volevo chiedere a Maurizio. Ma Maurizio, abbiamo sentito prima Bressanini che diceva che diciamo che i prodotti con l'aggiunta sono quelli che irretiscono e alla fine fanno spendere molto di più, ha detto il selenio, ha detto gli omega 3. Ecco, tu cosa ne pensi? Davide, io ti devo dire la verità, io facevo fino a 2 mesi fa il pubblicitario, quindi trasformavamo questi piccoli particolari di determinati prodotti in miracoli per le persone, quindi io sono primo a cascarci, ma sono anche il primo che dice state attenti perché dietro un prodotto non ci sono i miracoli. Bene, bene, abbiamo sentito questa. Allora, ora abbiamo parlato prima delle croste. Qualcuno ha citato le croste di parmigiano, quindi le croste di alcuni formaggi, non di tutti, perché ci sono quelli, diciamo, freschi, che assolutamente le croste sono un fatto diverso. Ma il consorzio del parmigiano reggiano ha lanciato, per così dire, non dico una campagna, ma sicuramente dei suggerimenti di come recuperare le croste. E allora io lo chiedo al direttore del consorzio, Riccardo Deserti. Buongiorno Deserti. Buongiorno Davide. Ci vuoi parlare appunto delle cosa l'avete lanciato sulle croste, il sistema del recupero? Beh, noi abbiamo cercato di portare un recupero di cultura in cucina, visto che il nostro formaggio è molto apprezzato in Italia e all'estero, ma si stanno perdendo le abitudini del passato sulla valorizzazione in cucina non solo del cuore delle forme ma anche delle croste, e abbiamo fatto un concorso rivolto proprio ai comuni cittadini che hanno proposto ricette o innovative o del passato, ed è emerso una grande varietà di applicazioni, di idee per proprio valorizzare questo che a tutti gli effetti è parmigiano reggiano, ma molto spesso viene dimenticato. Beh, io ricordo anni fa, quando c'era la cucina economica ancora, che la crosta a un certo punto si metteva sulla cucina economica e poi diventava così gradevole che si mangiava a morsi sicuramente. Ma io ti voglio chiedere un'altra cosa. Di solito quando, diciamo, uno tiene tanto un parmigiano in frigorifero, tanto magari anche non avvolto correttamente, si forma la muffa. Ecco, volevo chiedere, è il momento, io so benissimo come si tratta, ma vorrei che tu lo dicessi tu ai nostri radioascoltatori, si butta o si può recuperare? Beh, innanzitutto come evitare che questo succeda? Importante rispetto anche ad altri formaggi più giovani, se si consuma il parmigiano di media e lunga stagionatura, quindi oltre i 24 mesi, che è quello tipico da consumo in cucina, questo è un prodotto che tende a non fare la muffa come altri formaggi. Poi è chiaro che se viene conservato in frigorifero, non perfettamente ricoperto, l'importante è non lasciarlo in contatto con sacchetti di plastica, ma avvolgerlo con anche un normale sacchetto di carta o uno straccio, ma non umido, il prodotto può essere conservato tranquillamente in frigorifero anche per periodi lunghi, parliamo anche di uno o un paio di mesi. Se dovesse partire un puntino di muffa, comunque basta rimuoverlo con un coltello e comunque il prodotto non assume altri odori, non ha nessun difetto, nessun problema per la salute, rimane perfettamente utilizzabile, come dicevamo prima, fino ad arrivare alle croste. Ricordo, tu hai detto la cucina economica, ma venendo ai tempi nostri, una ricetta facilissima è tagliarle a fettine sottili e metterle al microonde per qualche secondo e vengono delle specie di chips che sono estremamente gradevoli e tutto naturali. Andrea, tu l'hai mai fatto questo sistema? L'hai mai adottato questo sistema? Sì, infatti ho sentito il piatto e ero qui ad annuire, perché effettivamente si ottiene un effetto chips molto interessante e tra l'altro sono molto buone, le consiglio, sì. Bene, e io chiedo, allora, grazie a Riccardo Deserti. Ora sento Paolo da Milano, radioascoltatore, sentiamo. Buongiorno a tutti. Buongiorno Paolo. Io credo che in parte sia anche un problema di pigrizia però delle persone. Io ho 51 anni, quando faccio la spesa, diciamo, al di là di vedere le confezioni, i prezzi, offerte, eccetera, però insomma difficilmente mi pongo il problema della scadenza, perché insomma la cosa che scade prima penso che abbia almeno 15 o 20 giorni, per cui difficilmente facciamo la spesa ogni 20 giorni, facendola regolarmente una o due volte alla settimana ciò che si acquista bene o male si ha la possibilità anche di consumarlo, di cucinarlo. La pigrizia può essere che insomma mezz'ora si trova sempre per fare qualcosa, in mezz'ora si fanno tantissime cose. Paolo, non tutti la pensano così, purtroppo tutti no. Ricorrono a delle cose pronte e poi magari le lasciano scadere in frigorifero. Grazie Paolo. Ora abbiamo con noi anche un esperto di prosciutto di San Daniele, abbiamo Vladimir Dukkevich, che è presidente appunto del consorzio ma nonché un grossissimo produttore. A lui chiedo quello che ho chiesto prima sul parmigiano. Ma ecco, molta gente compra il prosciutto, magari tagliato al supermercato o nel negozio, lo mette in frigorifero e magari per un po' di tempo non è avvolto bene, se ne pende, se ne dimentica, quando lo tira fuori sa di rancido. Come si può fare per prevenire, diciamo, questi problemi, Vladimir? Beh, buongiorno Davide, ci sono diversi modi per far durare o per ottimizzare la vita del prosciutto. È chiaro che se uno compra un etto o due già affettato, beh, è bene che lo consumi il prima possibile e che ne compri la quantità che andrà a consumare nelle poche ore successive all'acquisto, diciamo entro il giorno dopo. Se invece riesce a fare un piccolo investimento, che trovo estremamente intelligente, e avere una piccola affettatrice a casa, allora può acquistare o i quartini o il mezzo prosciutto, che ha una durata notevole, perché poi si conservano similarmente a come si può conservare il parmigiano reggiano. Oltre ad avere degli altri usi, quando uno magari arriva alla fine, al piccolo fondello, ci sono svariate maniere per cucinare col prosciutto crudo, che può andare dalla semplice insalata a qualche pasta con il San Daniele, fino a farci la minestra se magari uno ha un pezzo un po' più grande o lo stinchetto del prosciutto. Ma vedo Maurizio che annuisce. Sì, assolutamente, è quello che dicevo anch'io precedentemente, magari investire su quello, ritorno a dirlo, sul sottovuoto. Sottovuoto è la soluzione più pratica un po' per sì, tutti. Sì, però attenzione, cioè non tutte le famiglie possono permettersi un sottovuoto, possono fare la spesa con questa, diciamo, con questo mezzo. Insomma, credo che la maggior parte, Vladimir, dei consumatori italiani il prosciutto lo comprano ancora tagliato, sì, sì. Quindi affettato. Quindi secondo me è un grosso problema. Ma non lo so, avvolgerlo magari in maniera particolare, c'è qualche mezzo per farlo durare qualche giorno di più? Beh, diciamo la verità è che insomma tutte le aziende a San Daniele, come in altri posti, hanno investito proprio per poter vendere le vaschette che per assurdo regalano una durata molto lunga al prodotto, visto che poi il prosciutto viene dalla parola prosciugare e quindi dal verbo prosciugare, quindi avendo tolto tutta l'acqua che c'è dentro si conserva in modo assolutamente naturale per lungo tempo. Quindi è consigliabile la vaschetta? Beh, la vaschetta costa un po' di più perché ovviamente metterla, tutte le tecnologie che servono per conservare a lungo, insomma, sono costose, però è chiaro che uno può permettersi di tenere una vaschetta in frigo per un mese e mezzo, due mesi. Quindi bene, questo mi sembra che sia anche la soluzione del problema che ponevo io. Grazie, grazie a Vladimir Dukicevic. Sentiamo Paolo da Milano, un radioascoltatore. Paolo? Allora, sentiamo Enzo da Torino. Sì, pronto? Prego, può parlare subito, prego. Buongiorno, buongiorno a tutti. Volevo soltanto dire che credo che i consumatori abbiano una colpa relativa riguardo gli sprechi. Io nei miei 60 anni di vita ho visto una caduta verticale della qualità del cibo che compriamo con il triste avvento della grande distribuzione dei supermercati, che ci vendono specialmente sul fresco frutta, verdura scongelata che portiamo a casa non ancora matura e che ci marcisce in casa perché la maturazione di fatto non avviene. Quando andavo a fare la spesa con la mamma, devo dire che la qualità di quello che portavamo a casa era veramente differente. Bene. Grazie Enzo, sempre a tornare al passato, purtroppo il passato non torna. Abbiamo con noi Valeria Brignani, che è autrice di Discount or Die. Bene, Valeria Brignani aveva un blog che è diventato un libro, e Discount lo dice già la parola stessa, e credo che il suo fine sia il gusto di risparmiare. È così, Valeria Brignani? Sì, esattamente, l'idea proprio del blog è nata per quello, smettere di vergognarsi di voler risparmiare o non considerare qualcosa di cui vergognarsi, andare a fare la spesa al discount. E quindi so che ha avuto molto seguito questo suo blog e questo suo libro. Sì, seguito inaspettato, non me lo immaginavo, anche perché è veramente nato per scherzo tra amici, l'idea di creare un archivio collettivo sul web, per condividere consigli e suggerimenti su come fare la spesa al discount nel mondo del low cost, e invece poi si è scoperto col tempo, con gli anni, che sta acquistando sempre più seguito, sono contenta. Ah, quindi continua, non è che si sia fermato al libro, cioè continua il... Sì, continua, adesso mi arrivano anche recensioni da tante altre persone, prima le scrivevo solo io o qualche amico, adesso è aperto al pubblico, quindi chiunque può mandarmi una mail, scrivere una recensione e la pubblichiamo senza troppe censure o cose, ecco. Bene, sentiamo Donatella, un'altra radioascoltatrice della provincia di Ancona. Buongiorno Donatella. Buongiorno. Mi dica. Allora, io faccio una domanda. Quando vado al supermercato, viva Nisi, no? Vado al supermercato magnifico, non dico il nome, mettono dei gran cartoni e c'è scritto prodotti in prossima scadenza. Sì. Però sopra mettono lo sconto del 50%. Io lo compro perché in prossima scadenza, vedo che mancano 3-4 giorni, però se non riesco a consumarlo, io lo congelo prima della scadenza, nella speranza che si blocchi il fenomeno del guasto, insomma. Faccio bene o faccio male? Beh, dipende da prodotto a prodotto, ovviamente, su questo. Non è che può fare una regola generale. Ci sono prodotti che può benissimo congelarli, altri invece che bisogna stare molto, ma molto attenti. Quindi non pensi a una regola che tutto si può fare. Diciamo che la scadenza, quando è molto vicina, i supermercati dovrebbero appunto, diciamo, buttare. E proprio per questo è nato a Bologna Last Minute Market del professor Segre, che abbiamo sentito all'inizio, perché loro recuperano in tempo e distribuiscono a diverse onlus, addirittura con un libro dove sono anche indicate le ricette. Grazie comunque Donatella di aver sollevato questo problema. E io abbiamo con noi Lisa Casali è diventata molto nota appunto perché ricicla tutto, però io voglio chiedere a Lisa non tanto il recupero. Lisa, ma tu come fai a fare la spesa e non sprecare? Ciao, buongiorno. Mi è sempre un piacere essere ospite da te. E, diciamo, il problema è che sto cercando di porlo ancora più a monte, ovvero tutto quello che posso farmi in casa e quindi anche limitare il dover fare la spesa e acquistare prodotti. E è da un po' di tempo che sto cercando anche proprio di sperimentare, perché anche per me è una cosa nuova, come immagino possa esserlo per tante persone, quindi fare in casa le farine partendo da cereali. Un cereale integro dura molto di più di un cereale macinato, quindi anche un modo qui per far durare più a lungo un prodotto, o anche imparare a farsi a casa prodotti, diciamo, di uso normale, insomma, di popolare, come possono essere prodotti pronti, surgelati, che naturalmente acquistando un prodotto, diciamo, non lavorato, integro, una verdura sfusa, ha un costo inferiore rispetto a un prodotto surgelato, un prodotto pronto all'uso. E ad esempio ho scoperto anche come è facile farsi in casa la minestra, la zuppa istantanea. La faccio magari quando una mattina dove sono a casa, tipo non so, oggi, per usarla la sera dove sono di corsa e ho voglia di prepararmi una zuppa in pochi minuti. E un tema sicuramente interessante comunque è appunto dove trovare queste materie prime di qualità. C'è sempre un po' questo compromesso tra l'esigenza di avere prodotti sani, sicuramente su una filiera corta, e al suo tempo anche una vita lavorativa, familiare, sociale, che dà sempre meno tempo a disposizione. Sicuramente vivendo in una città per esempio come Milano, io ho oggettivamente il problema della frutta. Sentivo, ne parlava anche prima un ascoltatore, della difficoltà veramente di trovare una frutta di qualità fresca al supermercato, e qui sicuramente i gruppi di acquisto solidale o piccole cooperative, i mercati anche, possono venire incontro, ma costringe un po' a diversificare la spesa e quindi dover approvvigionarsi di materie prime un po' direttamente dai produttori. Grazie Elisa, ma io vedo che c'è Andrea che prima, quando si parlava di recupero ad esempio delle verdure, annuiva. Sì, vai, io ho questo detto che il cipollotto è come il maiale, no? Cioè che non si butta via nulla, che è effettivamente, ad esempio con il cipollotto si può andare a cuocere il ciuffo in cima, anche se in tanti lo vanno a tagliare, lo buttano via, che dà un sapore molto buono al minestrone. Oppure le radicette sotto si sciacquano, si friggono, sono strepitose, sì. È l'essenza di cipolla. Questa cosa si può andare ad applicare a tante altre Maurizio verdure. Tu sei fissato con una patata vintage. Sì, praticamente non sono fissato io, ma il più grande chef del mondo, a mio avviso, che è Rabzecchi, che utilizza verdure vintage, magari che sono state nell'orto per un anno, ne utilizza il cuore, lascia ancora le radici al centro, oppure utilizza degli scarti, come dice Andrea, per fare delle ricette straordinarie. Quindi se lo fa lui, famolo. Marco da Verbania, l'ultimo radioascoltatore, poi non ne possiamo accettare più nessuno. Marco, veloce. Salve, buongiorno, io volevo solo parlare delle verdure insacchettate prelavate e degli affettati in busta. Sì. Secondo me, e volevo il vostro parere, sia da un punto di vista di qualità del cibo, sia da un punto di vista di spreco complessivo, sono dei prodotti abbastanza da evitare. Io quantomeno cerco di evitarli, perché ho l'impressione che le verdure prelavate abbiano, come dire, una vita, quindi dal momento in cui vengono prodotte al momento in cui vengono insacchettate, lavate, portate ai supermercati. Senta, Marco, pochissimo tempo, però le rispondo sulle verdure, diciamo, impacchettate, che innanzitutto bisogna rilavarle comunque, quindi non vedo dove c'è il risparmio, e poi costano il 20% di più o forse di più anche delle altre, quindi di conseguenza veramente non ne vale assolutamente la pena. Bene, siamo arrivati in fondo, io vi do un consiglio, dal 12-14 ottobre a Milano ci sarà Milano Golosa, dove molti di questi temi verranno ripresi, per conoscere per non sprecare, quindi sicuramente non siamo riusciti a metterci in contatto con un cuoco di bordo che sta navigando, perché volevamo chiedere come fanno i cuochi di bordo a diciamo organizzare la spesa quando assolutamente non si fermano. Purtroppo non ci siamo riusciti perché era in alto mare, quindi non siamo riusciti a prenderlo. Io vi do appuntamento appunto la prossima settimana e vi auguro a tutti un buon weekend. Grazie a Maurizio, grazie. E Andrea, Kiss and Food. Buongiorno a tutti. Grazie.